A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia e ho qui vicino a me ancora Andrea Zorzi. Grazie Andrea. Ciao, ben ritrovato. Abbiamo un sacco di cose di cui vogliamo parlarvi, tra cronaca attesa del derby di domani, della giornata di domani tra calcio e Formula 1 e temi che abbiamo accarezzato, toccato, approfondito durante la settimana. Abbiamo talmente tante cose di cui parlare con voi, anche con voi direttamente, 800 24 00 24 è il numero verde, che di ore ce ne servirebbe ben più di una. Una ne abbiamo e vedremo di fare la svelta. Ci stringiamo un po'. No, perché c'è la cronaca e ne parliamo subito con l'Italia del rugby che ha perso una sconfitta con i Pumas, il trittico dei test match autunnali. C'è la Formula 1 che domani vedrà partire in fili indiani tre candidati al titolo, Vettel, Alonso e Webber sulla sinistra dello schieramento, uno primo, l'altro terzo, l'altro quinto. Dall'altra parte ci sono invece Hamilton, Button e Massa. Hamilton in prima fila, Button in seconda e Massa in terza. Con Alonso che ha fatto un giro capolavoro a tempo scaduto in zona Cesarini, perché era quinto, una pericolosissima quinta piazza dietro le due Red Bull, invece è riuscito a portarsi in una terza linea di partenza che è molto soddisfacente, come ha detto lui stesso. C'è il derby che stiamo aspettando, c'è Andrea Zorzi che ha tre misteriose pagine di giornale spiegate davanti e poi ci dovrà illustrare il motivo di questo. C'è Zamparini che vuole scappare dal calcio e dall'Italia, ma soprattutto c'è il tema degli infortuni su cui Andrea Zorzi ci discutevamo animatamente prima dell'accensione dei microfoni. Altro tema di cui vorrei parlare: c'è un derby primavera che si è giocato, quello di Milano, e di cui l'ospite misterioso che arriverà tra poco ci racconterà. Ma partiamo dall'azzurro del rugby. Giacomo Bagnasco da Verona, buonasera. Buonasera, buonasera Carlo, buonasera a tutti. Allora, che è successo a Verona? Sappiamo il risultato, 22-16, raccontaci un po' la partita. Sì, guarda, a Verona si è stata una partita brutta, decisamente brutta, soprattutto per il livello internazionale del match. Una partita che l'Italia ha perso e che l'Argentina ha vinto con merito, perché ha saputo portare il match sui binari che le sono più graditi. L'Italia è stata una squadra non lucida e non propositiva, ha iniziato bene, ha avuto due occasioni con Paris, non ne ha approfittato, il primo tempo poi è andato avanti su un piano di equilibrio, è terminato sul 6 pari, ma si è capito che qualcosa non funzionava, gli azzurri non riuscivano più a portare il pallone al largo, il gioco diventava un gioco in spazi ristretti con parecchi placcaggi e agli argentini non sembrava vero poter rallentare il ritmo e aspettare le occasioni giuste giocando di rimessa. Nel secondo tempo è arrivata al 12esimo la meta decisiva segnata dall'estremo Rodriguez, c'è stato un contrattacco molto lineare, pulito, niente di eccezionale, ma fatto bene in velocità da parte degli argentini, con l'ala Amorosino che ha calciato, scavalcato un paio di azzurri, ha recuperato la palla, l'ha passata a Rodriguez che è andato in meta. A quel punto tanti tentativi velleitari, da segnalare anche che l'Italia ha rinunciato a fare due calci che potevano portare punti importanti e che ha invece concesso un paio di calci evitabili agli avversari. Buona la prova di Felipe Contepomi, il mediano d'apertura dell'Argentina, nominato Man of the Match, ha centrato i pali 6 volte su 8. Per gli azzurri è arrivata quasi a tempo scaduto la meta della speranza, quella che ci ha portato dal 9 a 19 al 16 a 19, è stata una meta ottenuta sulla spinta della mischia, l'arbitro ha concesso una meta tecnica, l'Italia era anche in vantaggio di un uomo perché c'era stata l'espulsione temporanea di Losado e a questo punto c'era ancora un brivido di speranza, però gli argentini hanno tenuto la palla lontana dalla loro metà campo, hanno addirittura conquistato un'ulteriore punizione nel finale. Il punteggio è di 22 a 16 per gli ospiti, Italia che non riesce a battere l'Argentina in casa dal 1998, è arrivata al quinto insuccesso interno consecutivo con i Pumas, quindi un inizio negativo per questi tre test match autunnali. Ricordiamo che gli azzurri giocheranno sabato 20 con l'Australia a Firenze e sabato 27 con le Figi a Modena. Dato che sarà ben difficile battere l'Australia, possiamo puntare al massimo a una vittoria su tre e pensare ad un bilancio che già si tinge con colori negativi. Sì, subito alla prima già pensiamo a un bilancio, già pensiamo a un bilancio in rosso, ma ecco, è fatale, no? Perché la partita che poteva spostare il bilancio sul verde era questa. Esatto, se noi volevamo, dicevamo che un bilancio positivo è un bilancio che ci vede vittoriosi due volte su tre, adesso c'è bisogno di un miracolo o poco meno con l'Australia, che a quanto so stava perdendo con l'Inghilterra, ma insomma tra noi e l'Inghilterra un po' di differenza. Inghilterra che sta giocando invece, che ha ottenuto risultati sensazionali in questo autunno del rugby. Grazie Giacomo, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Giacomo Bagnasco, bilancio in rosso già, Andrea, pronti via. Però il pubblico c'era, prima ne parlavamo, 20 gol di esaurito. Insomma, questo dicevi tu è un valore che il rugby, a prescindere che il rugby azzurro si porta dietro. Infatti il fatto che il rugby riesca in questi ultimi anni a riempire gli stadi è di per sé un valore a prescindere, anche perché io parlo da figlio di uno sport minore e quindi poi le pagine dei giornali saranno legate anche a questo, a questo tema. E però è straordinario vedere anche come le cattive prestazioni, o comunque non così incoraggianti, non stanno intaccando l'amore, la partecipazione del pubblico italiano, che in quanto tradizioni in alcune zone come Verona, tanto Verona è la città meno rugbistica del Veneto, e ciò nonostante ha riempito, cosa che il Chievo non fa più da un sacco di tempo, e che il Verona no, ma fa più la nazionale come spettatori, fa proporzionalmente, ma forse anche in valore assoluto fa più la nazionale di rugby di quella di calcio. Però è strano, perché il luogo comune era quello finora che solo la nazionale vincente potrebbe far innamorare, che l'azzurro ha certamente un fascino e un valore molto superiore a quanto siano i club negli sport minori, ma deve essere vincente. Effettivamente sembra non essere più neanche così. È vero che il rugby a livello mondiale ha moltissime carte da giocarsi, perché il fascino degli All Blacks, dell'Australia, delle Sei Nazioni è notevolissimo, però l'Italia non può certo dire che il traino è determinato dalle tante vittorie, perché non sono così frequenti. No, anzi sono rare come le margherite di questo tempo d'autunno, nei prati. Ci fermiamo un attimo, traffico. Ma esiste secondo te una ragione per cui tutta questa gente va a vedere la nazionale di rugby? Beh, esiste perché il rugby sta vivendo un momento straordinario come fascino. Cioè, si parla di rugby, si parla di uno sport che sembra essere uno sport fatto di valori, uno sport in cui si esce un po' da quella sfiducia nei confronti di ciò che riguarda ciò che appare in televisione. Quindi effettivamente il rugby questa cosa la sta sfruttando alla perfezione. Per quanto mi riguarda, vedo volentieri molte partite di rugby. Quella di oggi non era così bella, ma il rugby giocato bene è un bellissimo sport, soprattutto negli ultimi anni è cresciuto. Poi soprattutto in Italia, sai, lo sai meglio di me, no? Sei incatenato al risultato, qui invece se prescinde totalmente dal risultato. Di solito è sempre stato così. Ci voleva una nazionale vincente, ma nella pallavolo, nel nuoto, nella pallanuoto, se no non vengono. Esattamente, se no non vengono. Quindi evidentemente il rugby sta riuscendo a superare anche questo aspetto. Io penso che ci sia una così grande voglia di valori, di cercarli, che sono disposti anche a superare le mancate vittorie per avere l'impressione di stare di fronte a uno spettacolo vero, sincero e spontaneo. Intanto vi faccio sentire cosa ha detto subito dopo la partita Capitan Paris, che si è assunto da capitano, nel rugby è così, gran parte delle responsabilità, delle colpe di questa sconfitta. Sentiamo. Penso che a tratti, per la partita a tratti, siamo messi un po' in difficoltà a metà campo, non calciavamo certi palloni che mai dovevamo giocare. Gli argentini erano bravi sicuramente a placcare, a mettersi in tanta pressione, ma ripeto, mi prendo veramente la responsabilità, perché ho sbagliato due palle che non dovevo sbagliare e lamentabilmente alla fine le stiamo pagando, quindi non ho niente da dire, solo grazie alla squadra, perché comunque i ragazzi mi sembrano dato tutto e niente, per me è una gran rimessa in questione. Già che ci sono, vi faccio sentire anche l'altra dichiarazione di Parisse. Sicuramente la delusione c'è, ce ne sarà, sappiamo che comunque abbiamo ancora due partite molto difficili. Sappiamo che una sconfitta ci avrebbe dato magari la settimana molto più difficile di quello che già è, perché andiamo a giocare contro l'Australia, quindi a noi di alzare la testa, io per primo. Questo era Capitan Sergio Parisse. Contro l'Australia sarà praticamente impossibile, contro le Figi speriamo, se no altro che rosso il bilancio, se si perde anche quella. Vabbè, l'ha messa in fondo perché così alla fine... La partita della Spagna, come l'anno scorso, è uguale, con Samoa, uguale. Non credo sia un caso. No, ma non lo è certamente. Ci ha raggiunto l'ospite misterioso, che altri non è se non Paolo Ghisoni, da Sky, buongiorno. Infatti sono abbastanza perplesso per la presentazione, comunque... Vabbè. Non sapete come è arrivato vestito l'ospite misterioso, sì, però. Non il reggiseno mutandine, voglio dire. Allora, Paolo Ghisoni, reduce, insomma, oggi secondo me il modo migliore per parlare di derby, del derby di Milano, comunque per cominciare a parlarne, per approcciare il derby di Milano, è discutere di quello che è appena finito. Non un granché. Quello primavera. Sì, Milan-Inter 0-1, gol di dell'Agnello, che è un 92, che l'Inter ha preso tre stagioni fa dal Livorno. Dicevo, non un granché, perché obiettivamente il derby non è stato particolarmente spumeggiante. Primi 20 minuti bene, tutte e due le squadre, poi dicono spesso che questi ragazzi risentono come i grandi del turno infrasettimanale. Hanno giocato in primaverata in Cup, una a Pescara, il Milan ha vinto, l'Inter ha battuto il Genoa, campione d'Italia per quanto riguarda sempre la primaverata in Cup. Obiettivamente dopo si sono un po' spente e anche le individualità da una parte e dall'altra, devo dire più l'Inter, non è che abbiano brillato più di tanto. Chi sono le individualità da una parte e dall'altra? L'Inter in questo momento ha un Alibek, che è un rumeno del 91, che già lo scorso anno, qualcuno se lo ricorda, probabilmente l'Inter ha giocato una esibizione, una finalina di Champions contro il Bayern Monaco a Valdebebas. È una sorta di esibizione che da quest'anno diventa ufficiale dalle semifinali. E lui siglò una doppietta. Cioè, sfida viene aperta dal confronto, sì, tra le primavere. Sì, dove tra l'altro si è scoperto il bluff Mourinho. Cioè lì a gennaio avevano già fatto tutto. Sono arrivati i giocatori, i ragazzini dell'Inter, e dicevano: ma Paolo, qui c'è tutto fatto. Sai che lui vuole i campi uno vicino all'altro. Sì. E i campi, da quanto ne posso sapere io di costruzione, non è che schiocchi le dita e un campo vicino all'altro a Valdebebas. Mago Merlino, puff! Quindi credo che tre mesi per costruire un campo con un manto perfetto ci volessero. Arrivi a fine maggio lì, se tanto mi dà tanto, torno un po' come quando nasce un bambino, no? Torno indietro nove mesi, obiettivamente. Questa è stata la situazione. Alibek per l'Inter. Nel Milan ha deluso un po' Simone Andrea Ganz, che è il figlio di Maurizio. Deluso relativamente, perché ultimamente aveva segnato molto, però un po' tutto il Milan, che sembra non aver assorbito la partenza di Zigoni o Duamadi, che è a metà tra la prima squadra e appunto la primavera, lo stesso Strasser, che aveva forza fisica, insomma una squadra senza identità. Mi ha un po' deluso, onestamente. Ti ha un po' deluso. Dopo approcciamo anche il derby dei grandi per vedere se può finire allo stesso modo. lì non saprei no, perché no, perché le individualità, è vero, anche il Milan ha qualche assenza pesante, però l'Inter è veramente, non dico decimata, però se tanto per fare un paragone, l'anno scorso il derby primavera lo ha giocato Obi, tanto per dirti che gioca probabilmente domani sera, quindi è un Inter che difficilmente darebbe spazio a questi ragazzi che l'anno scorso erano in primavera, se non per causa di forza maggiore. Parliamo con un ascoltatore prima di oggi, che è Marco della provincia di Siena, poi un'altra una domanda per te, perché sono curioso di capire se c'è rispondenza sullo stile di gioco tra il Milan e l'Inter primavera e prima squadra. Mi fa già accenno con la testa di no, quindi poi ci spiega anche perché. Marco, buongiorno, anzi buonasera. Buonasera. Dica. Niente, io ho sentito le parole del grande Andrea Zorzi, sì, sul rugby, e sì, mi sono sentito tirato in causa perché per me è andata così, come ha detto lui, circa 8-9 anni fa. Io ero un calciofilo sfegatato, ben prima dello scandalo, insomma, sì, del 2006. E niente, sono appassionato a questo sport dopo aver visto al Flaminio Italia All Blacks, aver visto una partita dove stavamo sotto di una valanga di punti e negli ultimi minuti si lottava per una meta. Sì. Italia All Blacks a San Siro, lei dice? No, a San Siro è successo 2 anni fa, parlo del 2003-2004 a Flaminio, mi pare, se non vado errato, era un persico, signora, non mi ricordo bene, realizzo la meta. E da ora decisi, ecco, di cambiare sport, proprio perché è attratto da uno sport di valori, mi sono documentato e da lì ogni tanto poi vi chiamo spesso quando parlate di rugby, perché è l'unica trasmissione che ne parla, insomma, radiofonico. Mi piace chiacchierare di tutto un po'. piace chiacchierare di tutto un po', quindi ci si prova almeno, giusto? Ci si prova. Senti, ma mi spieghi perché hai tre pagine dei quotidiani, dei principali, dei, cioè dei tre quotidiani sportivi davanti agli occhi? Vorrei riportarvi semplicemente indietro di qualche giorno, lunedì, sì, 8 novembre, giusto? Allora, Gazzetta dello Sport, Alonso l'ultimo respiro, quindi tutto rinviato ad Abu Dhabi, titolone grande 1-2-3 Milan, sì, poi un po' di roba di calcio naturalmente. Bari Milan, stiamo parlando di Bari Milan. In taglio basso c'è un accenno alla scherma, un accenno al golf, un accenno al tennis. Andiamo a Tutto Sport, all'ultimo respiro, titolo, sì, sulla Formula 1, grande grande la Juve c'è, non poteva essere altrimenti. Qui c'è anche qui in taglio bassissimo di Francesca Fioretto, di Francesca Fioretto d'Oro, e non se ne parla d'altro. Corriere dello Sport, Milan salto triplo, Roma da derby, e c'è un Fioretto mondiale tripletta italiana. Quindi c'è, ricordiamo che era domenica, ricordatevi bene. Allora, si è vinto nel tennis la Fed Cup, che non è... ti fermo perché sono hanno chiuso i giornali però molto prima della vittoria di Flavia Pennetta, che era l'una e mezzo di notte, perché se no era diverso secondo te? No, però è finita tardi come notizia da riportare. Obiettivamente io ho letto i giornali di domenica e mi sono stupito del fatto che, avendo assistito alla finale, era ancora in bilico perché aveva perso la Schiavone. In realtà era già finita. Ok, allora Fed Cup per ragioni anche organizzative non bastano, non sarebbe cambiato più di tanto. Canottaggio porta a casa 6 medaglie da Nuova Zelanda. La pallavolo in quel caso ha vinto con gli Stati Uniti, poteva ancora essere in gara per il... quindi notizie importanti. E la mia domanda a questo punto è, lo so quali sono le ragioni, mi hanno detto, arrivato in Gazzetta mi hanno detto, guarda che la Gazzetta si vende col calcio e coi motori, sì, punto e basta, gli altri sport non fanno vendere una Gazzetta in più. Sì. Ma la domanda è, anche un tifoso di calcio vero e proprio, non piacerebbe vedere in una pagina ogni tanto il racconto, lo specchio di quanto accaduto in quella giornata? E parliamo di mondiali, di altri sport minori, rispetto a una giornata di campionato importante, a tal punto che la frase che mi ha riportato, se gli altri sport hanno la sfortuna di fare finale di domenica, ci dispiace perché lunedì si parla di campionato. Ora, questa è ovviamente una realtà che conosco piuttosto bene, avendo lavorato con Sky per molti anni, so per esempio l'evoluzione che ha fatto anche Sky Sport 24, che ha tentato all'inizio di parlare dei vari sport, poi alla fine si mette una Fly, che è il satellite, di fronte al cancello di Appiano Gentile, perché è più importante sapere se la macchina di Mourinho l'anno scorso era entrata o non era entrata, piuttosto che provare altre notizie. Paolo Ghisoni che annuisce vigorosamente. Purtroppo è così. Però purtroppo, ahimè, è così. Allora, il purtroppo significa, per davvero, è quello che il pubblico chiede, questo totale interesse nei confronti del calcio e del automobilismo, o forse è un po' più complicato riuscire a creare un interesse per altri sport che, essendo meno conosciuti, hanno meno opportunità? Il rugby potrebbe essere un esempio in questo senso, se ne parla un po' per mille ragioni, ha qualche spazio televisivo anche sulla carta, ed effettivamente la gente inizia ad innamorarsi anche dello sport. È un circolo vizioso, lo sappiamo, la pallavolo ha avuto negli anni 90 moltissimo spazio, ma il concetto è, io ho avuto l'impressione che sia un po' più semplice per chi ha la responsabilità di disegnare le pagine o di fare i palinsesti di una televisione, andare sul terreno noto. Sai che sul calcio qualcosa di importante lo trovi, sai che hai un sacco di argomenti che sono molto sensibili per il pubblico. Far diventare una notizia qualcosa che riguarda uno sport minore è molto molto più complicato, ma questo fa sì che alla fine tutti i giornali, tutte le TV sono diventate quasi monotematiche. Sì, io invece il mio cruce è quello di avvicinare le signore ai nostri programmi sportivi, per questo motivo ho chiamato Andrea Zorzi e Paolo Ghisoni. Ecco. Capitato male. Vabbè, adesso, per quanto mi riguarda, che, poi Andrea. Adesso ci fermiamo un attimo, così vedrai che il prossimo ascoltatore che chiama è una signora. Scommettiamo 800240024 tra poco. Come da pronostico, grazie alla presenza di Paolo Ghisoni e Andrea Zorzi a Tempo di Sport di oggi, arrivano massicciamente le signore. Andrà da Torino e Corrado da Torino i prossimi due ascoltatori. Andrea è un nome femminile anche, volendo. Adesso sentiamo. Andrea, facci la voce femminile, provaci. Senti, Paolo, invece la domanda che ti volevo far prima, l'Inter primavera e il Milan primavera assomigliano alle maggiori? Allora, l'anno scorso sì, perché Napoleone al secolo Mourinho voleva così, 4-3-3, ma quest'anno proprio no, anche perché Benitez cambia spesso il modulo e obiettivamente la situazione che abbiamo detto degli infortuni complica un pochettino un piano tattico. Poi voglio parlare con voi di infortuni, Sì. Già lo dico. Il Milan oggi ha giocato 4-4-1-1, tanto per dirti. Non c'era una punta, una prima punta, ha giocato Verdi con trequartista, con dietro a Ganz. però lì c'era anche una situazione relativa, e qui entriamo magari in un altro tipo di discorso, su quanto conta non perdere un derby primavera, perché lo scorso anno l'Inter ha fatto un suicidio praticamente in Coppa Italia, ha vinto 2-0 la gara d'andata in trasferta, ha perso 3-0 quella di ritorno ed è stata con tutto l'anno con la testa sotto la sabbia. Riesce a vendicarsi nel derby di ritorno vincendo 4-1 con una formazione anche lì 3-5-2 mai vista, o 3-4-3, e quindi oggi il Milan contromossa gioca con una formazione, i tecnici sono uguali, è stroppa da una parte per il Milan e per l'Inter dall'altra, quindi oggi non c'era assolutamente nemmeno la parvenza lontana. Non sarà che Berlusconi non telefona a Stroppa quanto ad Allegri? Ma non lo so. Pone dicendo, era annunciato Galliani, però non si è visto. Pensa che mi sarei aspettato che più che un'analisi strettamente tecnica, anzi tattica, tu parlassi di analogie, di assomiglianze, di attesamento, di approccio, di stile quasi, perché la parte tecnica, insomma, è una delle componenti dello stile di una squadra. E invece è stato molto preciso sul loro. Ma dal punto di vista del modulo l'ho dovuto fare per il semplice fatto che, ripeto, le assenze da una parte e dall'altra condizionano anche quello che sono poi le scelte degli allenatori, sia per quanto riguarda la prima squadra che poi anche il derby primavera, perché oggi, tanto per fare un esempio, cosa che io odio, ci saranno le pagelle sulla partita di domani, c'erano inviati, c'erano televisioni, perché il derby di Milano anche a livello primavera è condizionante nei giudizi. Sì. Pagelle che onestamente fanno ridere, ma non tanto nel calcio primavera, nel calcio allievi nazionali, cioè siamo veramente al paradosso che un ragazzino, cioè tu prima sfogliavi i giornali, io poi ogni tanto li guardo, a me fa ridere quando arrivano queste inchieste modello Ajax, modello Arsenal, dobbiamo copiare, riempiamo paginoni. Poi c'è la volta che il ragazzino fa l'esordio, no? Magari una partita inutile e gli arriva il 5, non è pronto per palcoscenici importanti, e lo sappiamo che non è pronto, però non lo devi sottolineare, cioè è veramente la classica incongruenza di cavalcare un'onda adesso post mondiale e poi dopo alè, mazzate. Miei amici, Andrea da Torino e Corrado, sempre da Torino. Andrea, buonasera. Buonasera, innanzitutto mi dispiace di non essere una donna. Niente, le vogliamo bene lo stesso. Ma volevo solamente dire una cosa riguardo allo sport in TV e sui giornali. In questo mondo calciofilo c'è uno sport che secondo me è molto visto in TV, che è il football americano. Ci sono in Italia delle belle squadre, ci sono dei bei campionati, non viene mai preso in considerazione. Lo dico tra l'altro avendo un figlio che gioca a football americano, che sta per giocare la semifinale stasera del campionato, ma chissà perché nel mondo italiano non esiste. Tutto qui. Sì, e bisogna vedere anche a quanti italiani interessa il football americano declinato nella versione italiana, secondo me. Non credo si possa neanche poi dire che qualunque disciplina, di qualunque natura, con più o meno tradizione, debba essere trattata allo stesso modo. Come vale la pena fare delle scelte inevitabili. La domanda è, io ho l'impressione che in Italia questa scelta sia fatta esclusivamente pensando a calcio e motori e vengono trascurate, anche se saltuariamente, altre discipline che meriterebbero di essere venute fuori. Poi se è una sorta di riferimento sportivo, se è un campionato del mondo, possiamo dire di uno sport praticato o meno, e questo non è trascurabile, però credo che una apertura, io ritorno al concetto, secondo me anche un grande tifoso di calcio che lunedì apre la Gazzetta, il Corriere dello Sport, lo stadio, e vede alcuni richiami ad altre discipline, non credo che si arrabbi, si per offenda, questo sì. Forse non va a leggere il pezzo, non diventerà appassionato, ma semplicemente è una prima pagina. A questo punto facciamo due di pagine, facciamo la prima pagina sul calcio, sui motori, e poi a fondo facciamo la pagina degli altri, come si sa che spesso i pallavolisti, i giocatori di basket iniziano dal fondo la Gazzetta. A questo punto facciamo la prima pagina per gli sport minori. Corrado, Torino, buonasera. Buonasera. Io invece volevo intervenire con una voce un po' fuori dal coro, nel senso che secondo me negli anni 80 e negli anni 90 le cose andavano molto peggio riguardo agli sport minori in televisione. Nel senso che con l'avvento anche del digitale terrestre, ad esempio quest'estate io su Sport Italia mi occupo di nuoto, sono riuscito a vedere addirittura i campionati americani di nuoto che mai mi sarei aspettato di vedere in televisione, ad esempio. E quindi è vero che gli sport minori saranno sempre sconfitti nel confronto con il calcio, ma secondo me le cose vanno meglio di 15 anni fa. quando sì. per vedere un po' di nuoto dovevo aspettare le Olimpiadi, ecco. Sì, sì, e beh, ma c'è molto, è semplicemente anche una questione di quantità, no Paolo? C'è molto più sport in televisione in generale, sul web? In valore assoluto, sul web. Uno sul web fa abbonamento, vede partite di Major League, vede tutto oramai, anche partite, ai noi, visto che siamo di Sky, in contemporanea su satelliti russi o con emittenze piuttosto ambigue, insomma. Non c'è dubbio che adesso si possono vedere moltissime cose in più rispetto agli anni 80, anche perché sono riprese, una volta non lo erano. Però questo non ha a che fare necessariamente con la percezione che si ha globalmente. E cioè, quelle poche TV generaliste sono quelle che spostano l'interesse della gente e fanno diventare un evento generale di interesse comune o meno. Quindi adesso andiamo a vedere pallavolo. La pallavolo c'ha due partite alla settimana in TV, cosa che non ha mai avuto. Una volta eravamo su tutte notizie sulla Gazzetta, adesso non è più così. Quindi esattamente. Sì. Non sto dicendo che in misura assoluta si parla meno di sport minori, ma paradossalmente, nonostante l'esplosione di canali televisivi, di media, di internet, pare che l'attenzione si sia concentrata su pochi sport, perché sono più facili da promuovere globalmente. Questa è la situazione paradossale che riguarda il web, dove per esempio guarda Facebook, ha creato intorno a sé un interesse quasi globale. Sembra ci sia solo quello, c'è di tutto. Questo mi pare essere un po' il tema sul quale poter discutere. C'è un sacco di messaggi, 349-238-6666, poi ve ne leggo qualcuno, e anche diversi ascoltatori in linea. Ma stavo leggendo questa agenzia, una maxi multa per chiudere il contenzioso aperto con il presidente Riccardo Garrone sarebbe questa, secondo le prime indiscrezioni, la proposta contenuta nella memoria di costituzione depositata stamani dai legali di Antonio Cassano. Gli avvocati Conte e Zuccherletti al foro di Roma. Vedremo se sarà sufficiente una maxi multa per sedare le ire di Garrone. Lo dici Paolo? No, eh? A me raccontano di un Garrone molto, molto deciso, sì, sì. Mm. E poi soprattutto se lo può permettere. Molti dicono è un danno economico notevole. Lui ma se credo ne fa una questione di principio, penso che non ne faccia una questione, sì, di denaro. Assolutamente, Garrone. Anche perché molte volte a Genova gli imputano il fatto di non spendere nulla per la Sampdoria, quando in realtà le palanche ce le ha. Quindi... Eh sì. Allora, Enrico dalla provincia di Mantova, ma c'è anche Germana da Milano. Eccola. Visto? Buonasera. Salve, buonasera. Ho acceso la radio non dall'inizio della trasmissione, sì. Comunque ho sentito questo forte auspicio che si trattino anche sport minori. Non so bene se si riferisse questo auspicio più alla carta stampata o agli altri media, non ho capito bene. Comunque ho condiviso fortemente questo auspicio, sì. e volevo dirlo, ecco, cioè, a me sembra, sì, proprio una cosa fuori dal mondo che con tutte le decine di sport che ci sono e che avrebbero bisogno anche di essere fatti conoscere, oltre che quindi svilupparli. Certo. Ci sia. Però da un lato io faccio anche l'avvocato del diavolo, poi bisogna vendere i giornali, bisogna vendere gli abbonamenti della televisione, bisogna vendere il prodotto, perché se no non si sta in piedi. Però Andrea Zozzi stava dicendo una cosa diversa, perché questo lo sa benissimo pure lui. Sentiamo anche Enrico, provincia di Mantova. Buonasera, io sono presidente della scuola di hockey a Rotelle. Ma io direi che andiamo già meglio rispetto agli anni 80, anche perché noi siamo come hockey su Rai Sat e ci fanno vedere la diretta. Il, sì, problema forse sono i giornali. Abbiamo un grosso problema, sembra quasi che l'hockey, che raduna quando fa la finale via Reggio Follonica 5.000 persone, venga ignorato dalla carta stampata perché non è la grossa città. Sì. Sembra un grosso limite questo qui. Magari c'è uno sport che ha un grosso seguito, come noi, che abbiamo molta gente che ci viene a vedere anche in Serie 1, tipo in zone della Toscana e del Veneto, però ci manca la grossa città. E questo è un altro dato di fatto. Le metropoli, indubbiamente, la forza delle metropoli fa la fortuna dello sport, di un determinato sport. Una delle differenze tra lo spazio dedicato alla televisione e della carta stampata è che il giornale ha un numero definito di pagine e ci puoi mettere un tot di parole. Con l'esplosione di canali invece televisivi, che vanno avanti e continuano a crescere, in realtà c'è paradossalmente la possibilità di dire: ma tu sei in televisione? Poi magari non sai quanti ti vedono, quasi nessuno, sì, però sei in televisione. Quindi queste due cose vanno valutate con un metodo di giudizio anche molto diverso. Dopodiché credo anche che alla critica spesso rivolta a noi degli sport minori è che noi siamo i primi a farci del male, perché non siamo strutturati né organizzati per essere pronti per affrontare le richieste dei giornalisti o dei media. Penso anche che sia necessario accettare ogni tanto una sorta di classifica di priorità e di interessi. Ciò nonostante, in alcuni casi, come lunedì scorso, mi è sembrato che quei mondiali di scherma, di tennis, di pallavolo e di canottaggio, questi quattro eventi meritassero un po' di spazio in più, perché sono comunque eventi che indiscutibilmente hanno un grande valore. È un valore assoluto, certo. Traffico. Allora, voglio parlare ancora con Alberto da Pisa, poi c'è anche Stefano da Parma, però volevo interrogare i ragazzi qui presenti, Andrea Zorzi e Paolo Ghisoni, sulla questione infortuni. Il calcio ha un grande senso del dramma, tra l'altro, perché insomma sapete tutti di Inzaghi, no? Se fa segno, doppiette, fa record con Real Madrid, esattamente una settimana dopo si spacca un ginocchio, stagione finita. Quindi questo a latere, però sul tema infortuni sono dette un sacco di cose e voglio sentire la vostra. Prima Alberto da Pisa, se no facciamo aspettare troppo. Buonasera. Sì, buonasera, buonasera. Dica. E un salutone al grande Zorro. Grazie mille. Volevo intervenire un po' sul profilo anche dei contenuti di quello che viene messo sui giornali e in televisione. Cioè, il fatto tecnico molto spesso ha uno spazio ridotto rispetto a polemiche oppure calciomercato. Cioè, io non vedo mai delle statistiche anche riguardanti il calcio, che insomma sono comunque di rilievo e aiutano la comprensione, in un certo modo anche l'educazione. Cioè, negli Stati Uniti per esempio i magazine o comunque quando si parla di sport la statistica ha un peso predominante, da noi molto meno. Ecco, quindi da questo punto di vista non capisco per quale motivo venga considerato di minore interesse rispetto alla polemica o alla solita voce di calciomercato, ecco. Sì, tutto qui. Sì, sì, il giornale perfetto non esiste. Però adesso a fare il giornalista il giorno dopo che hai visto tutto, che hanno analizzato tutto, hanno letto le statistiche, è piuttosto complicato, perché io non apro mai il giornale di solito, se anche volessi, senza sapere com'è il risultato, cos'è accaduto. Mi farebbe comodo forse il tabellino, perché come dice Carlo Gobbi, il decano della Gazzetta, tra 20 anni apro la mia copia e vedo un tabellino su quale poter fare i conti. Posso trovare su internet, adesso ha un fascino diverso, però fare il giornalista di carta stampata adesso con gli orari delle partite e con tutto già detto è piuttosto complicato. Sei d'accordo, mi associo, Paolo? Sì, mi associo sul discorso tennis. Io quando il giorno dopo non hai la possibilità di essere una notizia ma un pallino e di vedere solo il risultato, io ho fatto recentemente il torneo di Parigi-Bercy, ci sono dei risultati che a livello statistico dici ah cavoli, partita combattuta 6-4, 7-6, partita inesistente come contenuti tecnici. Ed è una cosa abbastanza fuorviante. Io non sono un amante dei numeri e credo che lo sport vada raccontato un po' più come dicevamo con Andrea, dal punto di vista proprio di quello che una persona riesce a trasmettere vedendo l'evento, e forse sarebbe anche il caso con un pregresso, con un vissuto, certo, personale. Certo. Questione infortuni e poi andiamo sulle ultimissime da derby. Allora, in settimana abbiamo sentito di tutto, no? Varie voci su vari possibili cause di tutta questa montagna di infortunati, che secondo me è abbastanza la gricca grossa fisiologica per come lo sport di oggi. Abbiamo sentito anche, intervenuto con Gigi Garanzini, Carlo Vittori, preparatore di Mennea, di Roberto Baggio. Sentiamo cosa ha detto e poi voglio chiedere un parere, non su questa dichiarazione, ma sulle loro opinioni personali dei miei ospiti. Vittori. Quando un atleta ha la mente obnubilata, offuscata dal tedio, dal fatto che anche l'allenamento calcistico sistematicizzato con gli schemi, la ripetizione anche qui pedissequa di schemi uguali, perché devono imparare, devono ripeterli fino alla noia, e che cosa succede? Succede che quando va a giocare con il sistema nervoso e ormonale già frastornati, questo si fa male. C'è questo concetto che è assolutamente contrario alla biofisiologia umana. C'è un atleta, ci sono due atleti che stanno, oddio, che stanno calando nella condizione. Beh, benissimo, prendiamoli, domani riprendiamo la preparazione. Questa è follia pura. Quindi il tedio come causa, io non so come sia la situazione dei campionati primavera, ne ho sentite di tutti i colori nel corso di questa settimana. Io penso che questi infortunati, che sono molti, siano quasi fisiologici per come è lo sport di oggi, che porta al limite, no? Sì, credo questa sia una concezione leggermente non dico datata perché adesso obiettivamente una cosa che ho scoperto recentemente è l'incidenza psicologica sugli infortuni. A livello infimo l'ho provata io, nel senso mi è capitato di giocare partite in beneficenza con i miei colleghi, con ex campioni, e hai, essendo l'organizzatore, l'ultimo, sei l'ultimo tassello, no? Ti arriva la telefonata, non arrivo, quindi sei un po' in stato di agitazione, vai in campo e ti infortuni. Questa è una cosa che ho provato e appurato, quindi abbiamo tolto questo genere di situazione. Però poi dopo anche altri giocatori che avevano problemi personali fuori dal campo hanno trascinato questa situazione dal punto di vista dell'infortunistica. A livello primavera sei ancora da formare, molti mi dicono che sia proprio una situazione soggettiva, cioè non c'è una linea di continuità. Uno può avere benissimo un pregresso tranquillo, infortunarsi costantemente, come viceversa, certo. Insomma, però l'incidenza proprio della mente sull'infortunio è un pianeta tutto da esplorare, che secondo me andrebbe lo sport per come oggi ti porta a degli estremi fisici, per cui la percentuale degli infortunati è fisiologicamente destinata a salire. Ma sì. In mezzo alle mille concause, che sono tensione nervosa aumentata, pressione anche dei media, importanza, e questo certamente può avere una certa peso negli infortuni, io credo che siccome si va più forte, si salta più in alto, sì. Si schiaccia più forte, i contrasti sono più violenti, questo già spiega un aumento di infortuni, perché sei tirato al limite e basta veramente pochino per infortunarsi. Non ho idea a livello di trauma proprio di botta come siano cambiato, ma se ti sconti a velocità più alta ti fai un po' più male, ma soprattutto muscolarmente è chiaro che se tu sei tirato veramente al 100% è un po' più facile farsi male. L'esempio banalissimo della Formula 1: fanno meno chilometri della mia macchina che va a 80 all'ora e va piano, quindi questa è già una buona fetta. Dopodiché esistono farmaci, medicinali, tedio, preoccupazione, tensioni, che certamente hanno un peso che è aumentato, però lì andiamo in una situazione difficilissima da chiarire. Carlo, ti dico solo una cosa: il campionato primavera, le prime 10 giornate, al 70esimo almeno 6 o 7 giocatori fermi per crampi, e la preparazione l'hanno fatta, ci sono problemi, quindi è proprio una questione fisica. A 18 anni, probabilmente dopo 80 minuti di questo tipo di sforzo, alla fine. Dobbiamo chiudere qui. Io non riesco neanche a darvi il preview sul derby, chi gioca e chi non gioca con Giovanni Capuano, ma domani avremo tempo per parlarne. Chi lo vince invece ve lo chiedo, Paolo. Bella domanda. Pareggio. Pareggio, Andrea, da lontano. Ma se fanno come a Roma settimana scorsa, quello che non è favorito, quindi l'Inter. Io ve lo dico domani, chi lo dice, perché adesso non c'è più tempo, non ho tempo neanche per parlare con Stefano da Parma, che comunque ringrazio. Ma che ora domani alle 23? Troppo facile. Domani alle 23, faccio un'ansia. Grazie Paolo Ghisoni da Sky, ad Andrea Zordi, ci sentiamo la settimana prossima naturalmente con Andrea di sicuro, quantomeno. Grazie a Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, a Valeria Bernardi in regia. Domani dalle 5 alle 7 per parlare di calcio, dalle 20:30 alle 21 per il basket. A domani.